Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Qualche tempo fa con il professor Franco Prodi abbiamo parlato del nowcasting, ovvero della possibilità di effettuare delle previsioni meteorologiche a breve scadenza, quindi a una distanza di ore o addirittura anche solo minuti, ma con un livello di dettaglio estremamente elevato. Abbastanza, per esempio, per prevedere una raffica di vento su una pista di aeroporto. Per poter far questo è necessario osservare l'atmosfera con una grande accuratezza ed è proprio di sistemi per la diagnostica dell'atmosfera che ci occupiamo questa sera. Parliamo di un laser che consente di ottenere misurazioni in tempo reale e di grande dettaglio di numerose variabili atmosferiche. Un laser che è stato messo a punto dal gruppo di ricerca del professor Ezio Puppin, che è docente di fisica del Politecnico di Milano, e che verrà installato in un certo numero di copie in Cina. Una decisione, questa del governo cinese, che sta lavorando contro il problema enorme da quelle parti dell'inquinamento atmosferico. Ed ecco qua il nostro professor Puppin. Buonasera. Buonasera. Allora, senta, io però prima mi rassicuri, voi non è che state fornendo dei cannoni laser ai cinesi, vero? Dunque, io non sto fornendo cannoni laser o armi ai cinesi e per amore di verità devo anche dire che gli strumenti che stiamo vendendo ai cinesi non sono stati sviluppati da me, non sono così bravo, ma diciamo io sono il presidente di un consorzio nazionale all'interno del quale opera il gruppo del professor Nicola Spinelli dell'Università Federico II di Napoli ed è lui il tecnico che ha sviluppato questi strumenti. Io diciamo sono una specie di agente viaggiatore di queste applicazioni. D'accordo. Allora, comunque niente armi ai cinesi. No. Senta, come funziona allora il meccanismo? Cioè, in che modo il laser permette di ottenere delle misurazioni di parametri atmosferici? Beh, diciamo, la cosa è molto semplice da capire. Pensi di essere in un ambiente buio e di avere in mano una torcia elettrica. Lei manda il raggio della torcia elettrica e la luce che viene riflessa dagli oggetti circostanti viene raccolta dagli occhi che ricostruiscono l'immagine di quello che c'è intorno. Per esempio come quando vediamo il pulviscolo, no? Sospeso nell'aria. Esattamente questo, se io mando un fascio di luce abbastanza forte in un ambiente polveroso, vedo la polvere, allora il leader fa esattamente la stessa cosa. Quindi voi sparate un raggio laser per aria. Un raggio laser che va verso l'alto e poi di fianco al laser che punta verso l'alto c'è un telescopio che raccoglie la luce che viene riflessa indietro da ciò che c'è nell'atmosfera, questa luce viene raccolta, viene analizzata e in base ai dati, ai parametri che vengono misurati, è possibile risalire a che cosa c'è sopra. Cioè una specie di filmato dell'impulso laser, della cannonata che va verso il cielo, perché se si fosse in uno spazio rigorosamente vuoto non si potrebbe vedere, no? Ah no, certo, un fascio di luce se non si vede vuoto, non si vede se non prende proprio. Niente, ecco, infatti. Esatto. Quindi voi vedendo questo riflesso, diciamo, riuscite a fare, come dire, tutta una serie di misurazioni, di valutazioni. Si risale a molte proprietà di quello che c'è in aria. Di quello che c'è per aria. Ecco, e appunto, che tipo di proprietà e che cosa ce ne facciamo delle misurazioni che voi prendete? Beh, si misurano, adesso bisognerebbe andare un po' sul tecnico, grandezze come l'intensità, la distribuzione spettrale, che permettono di risalire a che cosa c'è nell'aria, si tratta di pulviscolo, si tratta di sabbia, di ceneri vulcaniche, di sostanze inquinanti. Okay. E oltre a questo il laser permette di stabilire dove si trovano queste cose che riflettono la luce dietro. Esatto. In che posizione? E so che state lavorando anche su dei sistemi per esempio valutare la velocità del vento, no? O sbaglio? Una delle cose che si possono fare è, sfruttando un effetto che si chiama effetto Doppler, è di misurare la velocità con cui si sta muovendo l'aria che, o le particelle che riflettono indietro questa luce. Ecco, senta, è un laser che ha delle caratteristiche particolari questo che utilizzate? Beh, è un laser che ha delle caratteristiche abbastanza sofisticate perché naturalmente sono misure abbastanza raffinate e impegnative da fare. In realtà non è un solo laser, in uno di questi apparecchi in genere ci sono due o tre diversi laser che mandano luci diverse per ottenere informazioni di natura diversa. Ok, è diciamo un laser abbastanza potente però immagino per poter vedere questo fascio, no? No, non è potentissimo, è più potente dei laser per esempio che si usano come puntatori, però non non è uno di quelli di guerre stellari. Questo, vabbè. Senta, che cosa andrete a fare allora esattamente in Cina? Mi racconta un po' quali sono i vostri progetti, quelli del governo cinese e anche magari come è nato questo rapporto, da dove viene? Allora, il rapporto è nato alcuni anni fa perché il mio collega dell'Università di Napoli ha ospitato un certo numero di studenti di dottorato che venivano dalla Cina, e questo ha consentito di stabilire una connessione che si è rivelata molto, molto amichevole, molto forte, a seguito della quale è nato questo programma di ricerca per lo sviluppo di sorgenti di questo tipo, di strumenti di questo tipo, che poi un anno e mezzo fa noi abbiamo venduto un primo prototipo di questi strumenti alle autorità cinesi. Questo strumento è stato installato, ha avuto molto successo, ha funzionato molto bene, e in questo momento stiamo discutendo di fornirgliene una piccola serie di strumenti di questo tipo, parliamo di 5-6 strumenti, con l'idea di allargare il campo delle sperimentazioni che si stanno facendo per capire esattamente che cosa serve, con l'idea che poi in futuro ci sia una rete di strumenti di questo tipo diffusa su un'ampia porzione del territorio cinese, che permetta di tenere sotto controllo l'atmosfera in tempo reale. Ecco, perché noi qua appunto abbiamo parlato di queste applicazioni che potrebbero probabilmente avere ricadute anche sulla vita di tutte le persone. Pensiamo che cosa vuol dire avere delle previsioni del tempo estremamente precise. Insomma, questo è un settore che nel campo delle smart city non è molto percepito come un settore, diciamo, che potrebbe avere degli sviluppi. Beh, intanto perché questi strumenti come il LIDAR sono ancora in una fase sperimentale, quindi si stanno studiando, si stanno ottimizzando, si sta cercando di costruirli anche in modo che costino poco. E l'idea è di avere reti di strumenti di questo tipo che forniscano dati molto dettagliati, che poi, dati in pasto a potenti calcolatori, come credo abbia spiegato il mio collega professor Prodi, servono a fare le previsioni dettagliate del tempo e anche a prevedere eventuali fenomeni eccezionali. Va bene, grazie professor Puppina, allora è avanti così. Grazie a voi. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani.